errore sei io. Caddi come pioggia in terra io. Fu solo in un momento, fu solo in un momento che io, toccando il fondo presi slancio io. L'aria limpida libera gli occhi, e se poi li tocchi non li riaprirai. La vanità genera mostri che se poi li guardi sono dentro. Se poi li guardi, sono dentro noi.